un'altra Europa. Buon sabato, ma soprattutto buon 2016 da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa. Ricomincia un anno insieme per raccontarvi l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, delle possibilità e delle opportunità in collaborazione con il network Euronet Plus. Quella di oggi sarà una puntata particolare perché tenteremo di raccontarvi da tante facce diverse, da tanti punti di vista diversi, l'Europa che sarà il 2016 che ci aspetta, i punti salienti, i punti importanti. Chiederemo anche ai nostri ospiti di regalarci una parola che sarà la loro parola del nuovo anno. E già come è stato nella puntata post natalizia, abbiamo scelto di così assemblare una playlist di musiche natalizie europee proprio per rimanere comunque nel clima festoso di questi giorni. Partiamo! Francia, questa marcia tradizionale, la marcia dei Re Magi, con la quale accogliamo il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Silvia Costa, presidente della Commissione per la Cultura e l'Istruzione dell'Europarlamento. Buongiorno Silvia, buon anno. Buon anno, grazie. È una bella musica con cui molto abbiamo bella, scelto molto, di aprire. Anche molto solenne, devo dire. È un inizio glorioso, speriamo. Silvia, apriamo con te questo 2016. Sì. Cosa ti aspetti dal nuovo anno? Allora, come se posso dire una piccola cosa personale, questo è un anno che mi fa un po' anche commozione, perché sarebbe, mio papà avrebbe compiuto 100 anni e quindi questo è il primo pensiero che quest'anno ho avuto. Detto questo, quest'anno spero che sia l'anno che segni un cambio di passo in Italia e in Europa, nel senso che abbiamo finalmente licenziato non solo la nuova, diciamo, fase per gli investimenti europei. Adesso per esempio a gennaio, subito fine gennaio, faremo un'iniziativa anche a Roma per parlare per esempio di come il piano degli investimenti Juncker, a cui si aggiungono le importanti risorse della Cassa Depositi e Prestiti, può dare ossigeno al nostro mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e dell'industria creativa, culturale e audiovisiva. Questa è una prima cosa. E poi l'altra, spero veramente che finalmente qualche nuova notizia importante dal mondo per quanto riguarda il processo di pace nel Mediterraneo, penso alla Siria, penso in particolare alla Libia, ecco, questo possa essere e debba trovare noi molto, diciamo, impegnati nel collaborare alla ripresa anche di questa fase dopo tante distruzioni e tante vite umane perdute. Certo. E quindi dobbiamo fare molto in questo campo, e poi i rifugiati occuparcene molto di più. E-learning, istruzione e coinvolgimento degli immigrati sono state un po' le parole chiave con le quali avete chiuso l'anno, e credo che siano anche i punti di partenza per il futuro. Noi abbiamo praticamente previsto che nell'ambito appunto di futura di investimenti ci sia prima di tutto il tema diciamo dell'Europa digitale, no? Sai che stiamo lavorando anche noi sugli aspetti che riguardano di più da vicino la cultura e la creatività. Penso al tema del copyright, penso al tema della revisione della direttiva sulle televisioni, anche la divisiva online, ma soprattutto sulle competenze, sia come si dice l'e-teaching che l'e-learning, sono i due aspetti, no? Imparare ma anche insegnare ai tempi digitale. È stato approvato, sono molto felice di questo, un progetto pilota a cui tenevo molto, per creare una sorta di European Academy per docenti, perché possano anche scambiarsi a livello europeo esperienze di nuove modalità di insegnare, ma anche di creare contenuti digitali educativi. E questo è importante perché tra l'altro in questo momento l'Italia è molto impegnata su questo, anche creando, questa è la mia seconda aspirazione, un network di tutti questi lab, fab, laboratori, sì, diciamo start-up che stanno nascendo in tantissime parti dell'Europa che devono essere più messe in network. E l'altra cosa importante è quella poi naturalmente della superare il digital divide, cioè questo ci sono ancora delle sacche di popolazioni che sono totalmente fuori dall'accesso a questi nuovi strumenti, ma anche di tutelare su questi strumenti anche però una navigazione sicura per i bambini e i minori. Mm-hmm. Cosa sono i MOOC che avete presentato e lanciato recentemente? Sì, i MOOC sono, ci sono già, però l'abbiamo voluti valorizzare in questa riunione fatta con Uninettuno e tutta l'associazione delle università a distanza europee. Uninettuno tra l'altro è interessante perché è un network che coinvolge tutte le università del Mediterraneo, quindi per noi strategico, insegnano anche docenti di quei paesi e sono veramente degli aggregati di contenuti che vengono dati non singolarmente con un abbonamento singolo, ma a delle proprie comunità, come quelle universitarie, come quelle di studenti che si iscrivono in larga massa e possono accedere anche a distanza chiaramente a forme di anche interattive di conoscenza, cioè sulla conoscenza, ma anche frequenza con riconoscimento poi dei crediti formativi finali. Mm-hmm. E quindi insomma spazi educativi fondamentali. Sì, tra l'altro su questo appunto penso che si possa fare molto di più, proprio parlando del Mediterraneo. Assolutamente. Silvia, qual è la parola che scegli, che vorresti scrivere a caratteri cubitali sul tuo calendario? Direi solidarietà. Io penso che la solidarietà, noi abbiamo fatto recentemente un convegno promosso a Roma che si chiamava Sicurezza e Solidarietà, solidarietà e sicurezza, ma le due cose si tengono, ovvero per esempio nel caso dei rifugiati di questa emergenza umanitaria, mi fa piacere la campagna che ha lanciato il giornale Vita su questo, la solidarietà significa anche percorsi di integrazione, accesso all'istruzione dei bambini e dei ragazzi quando sono nei campi profughi, non dopo, questo riduce anche la radicalizzazione, riduce lo sfruttamento di questi bambini, questi ragazzi e anche i minori non accompagnati. E poi la solidarietà perché l'Europa politica e l'Europa finalmente con una dimensione anche economica e sociale, con un'agenda sociale comune, senza solidarietà appunto politica e quindi fiducia reciproca non decollerà mai. Mm-hmm. Una parola fondamentale. Silvia, stavo pensando mentre parlavi, insomma, anno nuovo, quindi si è portati a guardare avanti, però credo sia importante anche guardare indietro. Tu è da diversi anni che sei lì al Parlamento europeo. Sì. Com'è cambiato? Cioè, quando adesso pronunci la parola cultura, è cambiato qualcosa rispetto a qualche anno fa? È una bella domanda, sì, secondo me è cambiato, ma guarda, è una cosa interessante, c'è stato un cambiamento diciamo che però non è stato così largo, di convinzione profonda di chi l'ha avuto e per esempio abbiamo finalmente fatto capire che la cultura non è solo un settore ma è una dimensione trasversale di tante politiche, cultura, creatività e investimento nella cultura. Il nostro paese in questo momento, devo dire anche grazie al ministro Franceschini, lo sta facendo e diamo un buon esempio, ma qualcosa è cambiato ulteriormente proprio dopo, Charlie Hebdo e piuttosto che gli altri atti di terrorismo, ovvero si è capito che senza una capacità e una competenza nel dialogo interculturale e interreligioso che non può essere lasciato fuori dalle scuole e dallo spazio pubblico, non c'è futuro, nemmeno per la convivenza pacifica. E Silvia, prima di salutarci, ti eri impegnata affinché entro il 2016 fosse decretato l'anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, ma niente, questo risultato non è arrivato. Non siamo impegnata in modo solenne perché abbiamo fatto addirittura una risoluzione in Parlamento europeo che non ha avuto seguito. Abbiamo rilanciato questo con interrogazione a partire dal gruppo SND e della Commissione Donne. Speriamo che arrivi questo famoso anno, anche perché nel frattempo la violenza è acuita, purtroppo anche a livello intrafamiliare o fra persone che si conoscono e questo sta travolgendo anche i minori, fra l'altro, e credo ci sia da fare molto anche nella mediazione, secondo me. Bisogna lavorare di più sulla mediazione familiare, credo che questo sia importante perché c'è una non capacità di gestire i conflitti o le sconfitte personali, eccetera, che sta diventando una tragedia per molte donne. Grazie davvero Silvia, buon 2016 a te, a tutto grazie il tuo team e ai tuoi collaboratori. Tantissimi auguri, complimenti per il vostro lavoro. Grazie, buon anno. Arrivederci, grazie. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta l'altra Europa. Sono i soli, la storia di tre re che cavalcano questa canzone croata, e noi andiamo a cavalcare verso il 2016 in questa puntata dedicata all'anno europeo che sarà, all'anno che ci aspettiamo, all'Europa che vorremmo avere. E per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qua con noi oggi Anna Maria Corazza, italiana naturalizzata svedese, eurodeputata per il Partito Moderato, una persona che ama tantissimo l'Europa e per l'Europa si impegna quotidianamente. Buongiorno Corazza, buon anno. Grazie. E benvenuta all'Altra Europa. Buon anno a tutti. Allora, quale sarà, quale dovrebbe essere la parola che andrà a contraddistinguere il 2016? Ma direi che il coraggio di lavorare per la coesione, per i loro valori, per quello che l'Europa rappresenta per tutti noi. Quello che è stato chiaro l'anno passato è che i problemi che abbiamo davanti a noi, il terrorismo, la migrazione, l'asilo, il putinismo, sono problemi che possiamo risolvere solo insieme e che l'attaccare l'Europa in continuazione non aiuta. Ma coesione solo come valore comune o coesione che poi praticamente come cosa deve diventare? Come... No, coesione come unico modo di risolvere i problemi che abbiamo davanti a noi, perché sono problemi comuni che vanno risolti insieme, con maggiori sono problemi che vanno al di là delle frontiere. Vediamo che le soluzioni nazionali non ci sono. Anche per la creazione del lavoro ci vuole un mercato interno, bisogna dare competitività alle imprese, veramente lavorando contro la frammentazione che abbiamo nel mercato interno europeo. La migrazione e l'asilo sono problemi comuni, dobbiamo meglio controllare e gestire le frontiere interne, le frontiere esterne, scusi, dell'Unione Europea, sapere chi entra, chi non entra, chi è veramente a diritto all'asilo e quindi deve essere benvenuto in maniera umana in Europa, chi invece è un migrante economico e allora può accedere con altri modi legali, ma se invece sono modi irregolari bisogna avere anche la possibilità di mandarli indietro. Bisogna essere uniti e coesi nel far fronte all'aggressione del Cremlino contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e anche l'atteggiamento destabilizzante contro l'Europa e il sostegno all'estrema destra. Bisogna essere uniti contro la minaccia dell'estrema destra. Ma chi è spaventato da questa coesione europea? Chi non la vuole? Il problema è che i nostri capi di Stato e di Governo in questo momento di multicrisi, in cui bisogna gestire più crisi allo stesso tempo, bisogna gestire la Libia ma anche l'Ucraina, i migranti, i rifugiati e anche il terrorismo, hanno bisogno di qualche forma di capro espiatorio per quello che non riescono a fare a casa e di prendersi tutti i crediti di quel poco che riescono a fare. E in questo modo allontaniamo le soluzioni che invece devono essere comuni. Io vorrei vedere nell'anno che viene più leader che hanno il coraggio di dire sì, noi a Bruxelles abbiamo risolto insieme le cose, non io a Bruxelles ho sbattuto il pugno più degli altri e criticato tutto quello che ha fatto la Commissione, perché questo non risolve. È molto più facile criticare che non risolvere. Certo. Spero che il 2016 sarà l'anno della responsabilità politica. Corazza, lei si occupa attivamente di migrazione, in particolare nei confronti della Turchia, se non erro, in questo ultimo periodo. Anche non solo, di tutto, ci siamo occupati io ormai da tutta la mia vita, ma in questi 7 anni al Parlamento europeo, moltissimo di migrazione e asilo. Adesso io sono anche da 7 anni nella Commissione congiunta per la Turchia. È chiaro che bisogna cooperare, lavorare con la Turchia su tutti i fronti nel lungo periodo, ma anche per risolvere insieme i problemi del controllo delle frontiere, della lotta al terrorismo e di una gestione più ordinata dell'immigrazione e dell'asilo in Europa. La Turchia si sta avvicinando o si sta allontanando all'Europa? La Turchia in questo momento è un paese che si è sentito l'Europa che gli ha voltato le spalle, che l'ha trattata con doppi standard, perché calcoli che è il paese che ha avuto il più lungo tempo di negoziati per entrare in Europa raffreddati, congelati. Cioè gli abbiamo promesso sì, potete entrare in Europa anni fa e poi per anni non abbiamo negoziato. Allora noi dobbiamo essere chiari che l'incertezza non aiuta il processo democratico in Turchia. Sicuramente adesso questo c'è un grossissimo problema di rispetto della libertà di espressione, dei media, che va assolutamente condannato. Però bisogna lavorare con la Turchia su tutto il resto. La Turchia è un paese che ha fatto dei progressi enormi rispetto al suo passato, anche verso la democrazia. E poi bisogna ovviamente risolvere sia il problema di Cipro, in cui tutti devono cooperare, non solo la Turchia, e dei curdi, in cui il problema sicuramente del popolo curdo, che deve essere completamente integrato e rispettato, è importante, però il PKK deve anche rispettare le regole democratiche. Mm-hmm. E Corazza, lei spesso anche in questa intervista ha criticato pubblicamente Putin e il putinismo. Qual è il suo timore? Per putinismo cosa intende? Il mio timore in Italia veramente è che io sono stupita di come il dibattito in Italia sia sulla Russia, perché è chiaro che nessuno vuole fare la guerra alla Russia, è chiaro che la Russia e il popolo russo saranno sempre per noi un importantissimo partner. Il problema è il putinismo e il Cremlino, non per niente al servizio degli affari esterni europeo guidato dalla Mogherini hanno creato un'unità proprio di per far fronte alla disinformazione e alla propaganda che quotidianamente destabilizza non solo l'Ucraina ma l'Europa, che parte dal Cremlino. L'intervento non coordinato con la coalizione del Cremlino in Siria ha creato più rifugiati, non meno rifugiati. Il sostegno a Assad lo sta dando la Russia da anni e anni e anni. La guerra sarebbe già finita se Assad non fosse stato continuamente sostenuto dalla Russia, e non è lì per combattere il terrorismo del Daesh e dell'ISIS, ma è lì per sostenere Assad. Tutte queste cose bisogna dirle come fatti e discutere sui fatti in Italia anche. E le sanzioni l'Italia sicuramente le subisce, che poi non sono le sanzioni europee, sono delle controsanzioni illegali imposte in maniera totalmente illegale dal Cremlino, che sicuramente hanno molto più effetto su paesi come la Polonia e i paesi baltici, che invece hanno una posizione completamente diversa dell'Italia per quello che riguarda la Russia. Quindi ci vuole anche un po' di fatti come base del dibattito. Io non prendo posizioni, però spero che l'Europa possa sviluppare una posizione unita. Un'ultima domanda: l'Europa è più bella vista dalla Svezia o vista dall'Italia? Ma io cerco di vederla da tutte e due, perché lavoro tutti i giorni per fare ponti tra il nord e il sud, creare comprensione, creare dialogo, creare anche tolleranza. Abbiamo problemi comuni e dobbiamo risolverli insieme. Gli stati membri da soli purtroppo non riescono, ed è ora che sia la Svezia che l'Italia lavorino più insieme, spero anche sui rifugiati, invece di fare a scaricabarili l'uno con l'altro. La Svezia in questo momento è il paese in Europa che accoglie più rifugiati, e molti più dell'Italia, e io ho sempre lottato per la solidarietà per l'Italia. Le voglio dire che sono stata a Lampedusa, sì, sono stata a visitare l'operazione Mare Nostro, dove la Marina italiana fa un lavoro eccezionale, e dovremmo tutti quanti esserne fieri e ringraziarli, perché è un lavoro che fanno non solo per l'Italia ma per l'Europa. E sono stata fiera che ci sia stata per esempio la più grande fregata svedese che abbia collaborato a questa operazione congiunta nel Mediterraneo, dove insieme salviamo le vite umane, ma l'Italia sicuramente fa un lavoro eccezionale. Bravi, bravissimi. Grazie davvero ad Anna Maria Corazza. 2016, l'anno della coesione, questo è l'auspicio che ci lascia in questa puntata dedicata all'Europa che verrà. Grazie davvero, buon anno. Grazie, un buon anno a tutti, arrivederci. Spagnoli in questa puntata comunque festiva, quindi come sempre abbiamo scelto delle playlist che ci riportano nelle sonorità legate al Natale, ritmi spagnoli per dare il ben ritrovato e il buon 2016 a Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo. Ciao Fede, buon anno a te, buon anno a chi ci ascolta. Allora, un 2005 ricchissimo per l'agenzia, ma qui stiamo già parlando del 2016, dove insomma il desiderio è quello di fare ancora meglio. Cosa ti aspetti che 2016 sarà per l'agenzia e l'Europa? Intanto spero che sia un 2016 importante e positivo per l'agenzia e per i beneficiari dell'agenzia. Alla fine l'agenzia è uno strumento, un mezzo che permette a tantissimi ragazzi, giovani, associazioni, enti locali di usufruire delle occasioni, delle possibilità che l'Europa mette a loro disposizione. Quindi spero da parte nostra il massimo impegno, quello c'è stato l'anno scorso, quello c'è stato 2 anni fa, per fare bene e meglio, e poi vediamo lo ci serve. Abbiamo in cantiere alcune cosine, non mi voglio sbilanciare più di tanto, però stiamo lavorando a qualche iniziativa importante. Uh-huh. E il bilancio dell'Unione per il 2016 dovrebbe destinare anche più fondi a Erasmus Plus, giusto? Destina più fondi Erasmus Plus per la parte gioventù, che è quella che l'agenzia segue direttamente. C'è un leggero incremento in positivo, c'è da dire che del 5% circa, c'è da dire che per quello che riguarda l'agenzia e i giovani italiani l'incremento più forte arriva dal 2017 in poi. Nel 2016 si inizia ad incrementare e quindi sì, le risorse che verranno gestite all'agenzia quest'anno dovrebbero essere intorno ai 14 milioni di euro, uh-huh, fondi europei. Certo. Giacomo, senza anticiparci le novità, c'è una parola che secondo te potrebbe o dovrebbe caratterizzare il 2016 dell'Agenzia Nazionale per i Giovani? Quest'anno secondo me il 2016 dell'agenzia deve essere quello del coraggio, uh-huh, sia noi come struttura, sia i nostri beneficiari, sia i ragazzi. Coraggio nel alzare l'asticella delle cose da fare, coraggio nel alzare l'asticella degli impegni da realizzare, che aumentano sempre e sempre più in maniera anche positiva, ma con, che dico, sono sempre più anche onori. Il coraggio soprattutto ai ragazzi di entriamo nel terzo anno di Erasmus, che su un programma che dura 7 è quasi la metà, e quindi coraggio a chi ancora è rimasto fuori a questo percorso, mettervi in gioco. E facciamo nostra questa parola, speriamo davvero che sia un'Europa e un'agenzia più coraggiosa. Ciao Giacomo, buon 2016. Ciao Fede, ancora auguri a voi, ciao ciao. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Amore. Amore. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. L'altra Europa. Sabato e ancora buon anno da Federico Taddia in questa puntata speciale, puntata che stiamo dedicando al nuovo anno dell'Europa, l'anno che verrà, l'anno che sarà, ma in queste puntate festive abbiamo scelto anche di fare una lunga playlist con le musiche natalizie più belle provenienti da tutta Europa. Questa è sonorità anglosassona. Do il benvenuto qui con me in studio alla voce europea d'eccellenza di Radio 24, Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Federico, grazie. Un anno inizia alla grande con questo super complimentone, mi fai arrossire. Un 2016 all'insegna dunque del rossore. Buon anno a tutti naturalmente. Insieme a Gigi, a tutta la squadra di Radio 24 si porta avanti ormai da anni questo progetto di Euronet, ora Euronet Plus, che è un network europeo per raccontare anche in modo nuovo questa Europa. Radio 24 sta facendo tanto, facciamo un riassunto di quello che è successo fino a oggi e soprattutto di quello che sarà. Beh, sicuramente è successo tanto, effettivamente come dicevi ormai sono 3 anni intensi di lavoro, di reportage, di approfondimenti quotidiani, di temi che appunto vanno dall'altra Europa all'Europa, se vogliamo, più istituzionale, che continua a essere in realtà un fattore in parte misterioso per l'opinione pubblica, sempre meno. Io da questo punto di vista sono molto soddisfatto, perché anche, come dire, le risposte che otteniamo o meglio le domande che riceviamo sono sempre più precise sui fondi, sull'accesso, sulle possibilità, insomma quell'idea di un'Europa che si può davvero utilizzare nel senso migliore del termine. Quello che faremo, abbiamo sicuramente alcuni interventi, uno di quelli che penso valga la pena sottolineare sia l'incontro diretto con gli europarlamentari. Li conosciamo poco, ce ne sono pochi noti, molti ignoti, molti di loro poi sono quelli che giustamente in una democrazia parlamentare europea votano e quindi determinano anche delle scelte di cui magari ci rendiamo conto 3 anni dopo, quando ci chiediamo ma perché abbiamo votato a livello europeo quella norma. Bene, cerchiamo di intercettarli un po' prima e soprattutto di farli dialogare con gli ascoltatori. Tra l'altro la crisi, tra l'altro la richiesta veramente di un modo diverso di raccontare l'Europa, credo abbia spinto anche loro comunque a utilizzare un linguaggio nuovo, a rendersi più comprensibili forse, no? Sicuramente, anche perché sai, io da questo punto di vista come tanti abbiamo visto che per anni l'Europarlamento è stato in qualche modo un luogo di pensionamento dorato per politici. Le cose sono davvero cambiate, chi frequenta anche i palazzi, con tutti i limiti, con tutte le critiche che dobbiamo fare a un sistema che è il nostro sistema politico, abbiamo davvero visto il grande cambiamento di persone che ormai rappresentano idee, ambizioni, aspirazioni, il territorio. Insomma, gli europarlamentari sono importanti, che ci piaccia o meno, al di là proprio dei nostri gusti individuali. Queste sono persone che globalmente determinano quelle famose direttive, quei cambiamenti che poi appunto segnano per anni il percorso europeo di noi italiani e di tutti gli altri 27. Il fatto che loro anche siano cambiati, secondo me, è una realtà. Sono d'accordo con te e c'è sicuramente ancora tanto margine perché sentano che li teniamo d'occhio nel senso affettuoso naturalmente, certo. Ma anche no a volte, perché ci sono anche delle situazioni in cui appunto c'è davvero bisogno di più pressione sul loro lavoro. Ti chiedo adesso di usare invece la sfera di cristallo. Che 2016 sarà per l'Europa? Wow, il 2016 che sarà credo un anno ancora complicato e difficile come è stato quello precedente, forse meno per certi aspetti economici, non meno per questa grande sfida sul sociale, sul ruolo dell'Europa. D'altra parte il 2015 è stato segnato dal grande capitolo migrazione, che non è certo nato nel 2015, che non finirà. Ci sono state tante battaglie e molte devono essere anche combattute all'interno dell'Unione per definire un percorso comune. È una strada molto lunga, però questo a mio avviso fa veramente parte della cultura e della mentalità dell'Unione, cioè decisioni facili non vengono prese in un luogo che mette insieme appunto 28 paesi. Non può essere, il dialogo è una parte del risultato e da questo punto di vista sono ottimista in un 2016 complesso e speriamo positivo. C'è una parola che potrebbe essere la tua parola per il 2016 dell'Europa? Ma io credo che sì, si potrebbe parlare di costanza, di tenuta, di resilienza, se citiamo un bel libro per appassionati di corsa e temi. Cioè è una gara di fondo, è una gara di fondo che è iniziata più di 50 anni fa con dei signori che ritenevano possibile che le nazioni che avevano combattuto tre volte in meno di 80 anni potessero costruire delle cose insieme. Ma io, per quanto ovviamente faccia parte di una generazione diversa, in questo ci credo. A 28 è ancora più complesso, quindi ci vuole molta costanza, molta tenuta. Che sarà anche quella di Radio 24 per raccontare l'Europa, ricordiamo, non solo l'altra Europa, ma i reportage europei che considero una bellissima produzione di Radio 24 e poi l'attualità quotidiana. Assolutamente. Grazie, Gigi. Buon lavoro. Ciao, grazie, Gigi. Grazie, Federico. Un saluto a tutti. Che sarà adesso, andiamo a toccare un aspetto che sempre di più riguarda la nostra quotidianità, anche se forse non ce n'è abbastanza consapevolezza. Sto parlando della privacy e abbiamo quindi il piacere di aprire il nostro anno dell'altra Europa con Giovanni Buttarelli, garante europeo per la privacy. Buongiorno Buttarelli, benvenuto all'altra Europa e buon anno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Quali saranno le sfide del 2016? Ho affidato a un tweet di martedì scorso il senso del mio pensiero. Sotto l'albero di Natale abbiamo trovato la riforma europea che cambierà molto il senso delle cose con una disciplina al passo dei tempi e che rafforzerà i diritti dei cittadini, dei consumatori, i poteri delle autorità incaricate di svolgere, diciamo, un'attività di enforcement, ma soprattutto la cultura della sicurezza e della protezione dei dati in un momento in cui ci stiamo avvicinando all'epoca del big data. Certo. Le stragi di Parigi hanno modificato la riforma, adesso ovviamente non nella sostanza, però sarebbe da riscrivere oggi? Non l'hanno influenzata, anche se ovviamente, diciamo, l'eco di questi fatti atroci è diciamo, nel pensiero di tutti. Non è la prima volta che accade, già dopo le bombe di Madrid e di Londra del 2005 ci fu una risposta dell'Unione Europea. Adesso, sulla base dell'esperienza, speriamo che questa volta sia più misurata e che le decisioni prese resistano, diciamo, ai principi della Corte di Giustizia, che vuole un'attività efficace, se necessario anche molto invasiva, quindi non è il problema quello di sacrificare diritti e libertà, ma è quello di trovare misure realmente indispensabili, temporanee se necessarie, focalizzate su categorie di persone, di paesi, di voli aerei, di persone da monitorare più incisivamente, non sul cittadino normale che non deve essere trattato da sospettato se non vi è una ragione specifica. I big data quando sono un'opportunità, quando sono una gabbia invece? Dov'è il confine? Come tutte le nuove tecnologie, può essere un fattore enormemente positivo per lo sviluppo, diciamo, non solo delle nostre democrazie ma della società in generale, a condizione che ci sia un quadro di trasparenza, che non ci sia troppa concentrazione di potere, uno squilibrio nella raccolta delle informazioni e soprattutto una cultura dell'uso collettivo e sociale delle informazioni. Il rischio al contrario è che si privatizzi il sapere, che lo si monetizzi, che diventiamo tutti eccessivamente profilati in cambio di qualche spicciolo sui nostri smartphone, qualcosa di cui ci accorgeremo quando sarebbe troppo tardi. Certo. Buttarelli, prima usavo la parola consapevolezza. Il diritto all'oblio, siamo abbastanza consapevoli dell'importanza fondamentale di questo diritto? Diritto all'oblio non significa distruggere la memoria, al contrario, per la ricerca storica, per la ricerca scientifica, per la cultura, l'informazione, noi dobbiamo saper mantenere diciamo traccia di ciò che è necessario e utile e può essere utile un domani. Il problema è che con i motori di ricerca invece il sapere è implacabile e quindi lascia traccia anche di cose per le quali forse un accesso graduato può essere utile, quindi potrei trovare un'informazione in un sito web specifico dove è giusto che sia, ma non è detto che facendo su un motore di ricerca la digitazione del mio nome debba apparire in un colpo solo tutto su me stesso per tutti da qualunque parte del mondo. Il diritto all'oblio è graduazione del sapere, non limitazione della conoscenza. Per salutarci, quale vorrebbe che fosse la parola del 2016 nella sua Europa ideale? Trasparenza e soprattutto cooperazione per far sì che questa riforma funzioni. In bocca al lupo, buon lavoro e grazie davvero, buon anno Buttarelli. A tutti buon anno. Ci fermiamo adesso, è il momento del traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Santa praša me ljubi, si mi zmajala s glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Il nostro viaggio accompagnato dalle note delle canzoni della tradizione europea, il nostro viaggio nell'Europa del 2016 per capire cosa ci aspetta e per farlo bisogna avere anche chiaro il punto di partenza. Abbiamo quindi il piacere di avere con noi Chiara Saraceno, sociologa e autrice del libro Il lavoro non basta, la povertà in Europa negli anni della crisi, edito da Feltrinelli. Buongiorno Saraceno e buon anno. Buongiorno, buon anno anche a voi. È una provocazione questo titolo o è una dura realtà? Entrambe le cose, nel senso che non c'è abbastanza lavoro per tutti quelli che vorrebbero averlo e che ne avrebbero bisogno, e il lavoro che c'è non sempre consente di avere una vita adeguata, cioè non dà un reddito adeguato. Certo. E perciò continuare a pensare che basta aumentare l'occupazione o frenare la decrescita dell'occupazione, perché in Italia di questo si tratta, per risolvere i problemi della povertà non va bene, cioè è troppo limitante. Ovviamente dobbiamo aumentare l'occupazione, in particolare l'occupazione delle donne, in particolare l'occupazione nel mezzogiorno. E però occorre anche prevedere altri strumenti per contrastare la povertà. Dopo andremo a capire anche quelli che sono questi strumenti, ma nella povertà l'Europa è unita o ci sono forti differenze tra una nazione e l'altra? No, ci sono forti differenze, per esempio ci sono alcuni paesi, tra cui l'Italia, in cui la povertà dei minori è più alta che la povertà tra gli adulti, ci sono paesi in cui la povertà si è aumentata anche negli anni precedenti alla crisi, ma durante la crisi, che però partivano da livelli molto bassi, penso alla Svezia, la Germania o la Finlandia, paesi invece in cui è aumentata, per, come l'Italia, ma anche Portogallo, Spagna o Grecia, in cui invece è aumentata partendo da livelli già piuttosto alti. E soprattutto ci sono paesi in cui la povertà è eminentemente un fenomeno individuale, cioè sono singoli poveri, giovani, basso reddito, anziani, in altri paesi, tra cui l'Italia, in cui invece la povertà è eminentemente un fenomeno familiare, cioè è proprio la famiglia che, essendo un ambito di solidarietà, però è anche un ambito in cui gli squilibri di reddito possono avere effetti negativi. Certo, si tende a pensare al cambio dell'anno come un momento dove si volta anche pagina. Lei si aspetta un 2016 molto diverso per l'Europa rispetto al 2015? Ma qualche piccolo segnale di ripresa c'è, nel senso che si è fermato il calo dell'occupazione, dico a livello europeo, in alcuni paesi l'occupazione è anche ripresa bene, salvo poi discutere su di quale occupazione si tratta e per chi, ma comunque in cui è ripresa, e altri invece che sono ancora o in una fase negativa oppure in cui la ripresa è piccolissima, e ahimè l'Italia è uno di questi paesi, cioè in cui, ma è una storia lunga purtroppo, cioè non è soltanto la crisi, noi siamo arrivati alla crisi già in condizioni non particolarmente positive. Prima accennava a strumenti o a soluzioni per fronteggiare o forse gestire la povertà, quali sono? Ma innanzitutto, se noi pensiamo che la povertà è anche in Italia soprattutto un fenomeno familiare, cioè che si realizza perché c'è uno squilibrio tra il reddito disponibile e il numero dei consumatori familiari, occorre aumentare il numero degli occupati per famiglia, che significa innanzitutto aumentare l'occupazione femminile ma anche quella giovanile, perché i figli altrimenti rimangono a carico moltissimo, come sta succedendo in Italia. Quindi bisogna pensare che l'aumento dell'occupazione deve in qualche modo, perlomeno le politiche di sostegno all'occupazione devono anche mettere a fuoco quali sono i soggetti più vulnerabili e quelli che hanno bisogno di risorse aggiuntive. Si pensa un po' ai giovani, ma con scarso effetto, devo dire, e si pensa molto meno alle donne con carichi familiari. Per queste ultime sono anche necessarie politiche di servizi, cosa che invece in Italia e anche in altri paesi con la crisi sono stati ridotti, quindi c'è stato un costo particolare per le donne lavoratrici con cariche familiari nella crisi, con i tagli e con l'austerity. Ovviamente politiche della formazione, altro settore che in alcuni paesi come l'Italia piange, mentre in altri invece è stato molto più investito anche negli anni della crisi. E poi occorre anche provvedere e pensare a misure di sostegno al reddito. A lei l'idea del reddito di cittadinanza piace? Sì, se penso a un reddito, cioè mi piacerebbe anche un reddito di cittadinanza universale, cioè nelle mie fantasie utopiche mi basterebbe che in Italia, cioè quando dico di cittadinanza universale intendo a tutti a prescindere dal reddito, in Italia manca anche un reddito di cittadinanza universale per tutti coloro che si trovano in povertà. Ecco, mi basterebbe questo, cioè un sostegno al reddito non categoriale, quindi non solo per chi ha almeno 3 figli, a chi abita in un posto piuttosto che in un altro, ma che l'essere al di sotto di un certo livello di reddito faccia accedere a un sostegno per una vita dignitosa. Quindi sicuramente sì, e non vedo, non è alle porte purtroppo neanche in questa legge di stabilità, perché si parla di introdurre, adesso non so più come l'hanno chiamata, una nuova carta acquisti o un SIA o qualche cosa per le famiglie che hanno minori ma che hanno un livello di reddito bassissimo, cioè 3.000 euro di ISE all'anno, che vuol dire che esclude anche almeno metà delle famiglie in povertà assoluta con figli minori. Ma basterebbero per tenere fuori dalla povertà molte famiglie con figli anche assegni per i figli, che esistono in molti altri paesi, di nuovo di tipo universale, quindi non categoriale, noi l'abbiamo solo per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, ma eventualmente modulati sulla base del reddito. Ci sono state delle stime fatte da economisti che segnalano che l'introduzione di una misura di questo genere tirerebbe fuori dalla povertà molte famiglie in cui ci sono lavoratori ma a basso reddito dalla povertà. Quindi sarebbe una misura universalistica che si rende conto, come dire, che tiene conto del fatto che chi ha figli ha un costo aggiuntivo, invece di fare un bonus per il figlio nuovo per fino a 3 anni, quello, cioè già soltanto mettere ordine in quello che già si spende e che ogni volta si aggiunge un pezzettino che però è del tutto disorganizzato e frammentato, si spenderebbe meglio in modo più efficace e più universalistico. Saraceno, le chiedo anche a lei una parola che le piacerebbe potesse essere la parola del 2016 per questa Europa. Solidarietà. Sì. Ecco, una parola, solidarietà, che è una parola ormai poco di moda. Guardiamo la civilissima Danimarca. Le manca Berlino? Molto, molto, perché è una città interessante, vivace, che continua a innovare. Poi può piacere, possono piacere o non piacere le singole cose, ma è una città viva. È una città viva, sì. Ecco, questa sì, è la grande assolutamente capacità. Assolutamente sì, viva e innovativa, sì. Grazie davvero, buon 2016. A lei, grazie a voi. Coesione, solidarietà, resilienza, trasparenza, coraggio sono le parole con cui ripartiamo quest'anno con l'altra Europa. Sarà un lungo 2016 da raccontare, ma ci siamo con la solita squadra: Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che anche oggi hanno scritto con me la puntata. In assistenza invece Filippo Aureggi. Radio24.it il sito da dove potrete scaricare la puntata. Come sempre invece, se volete contattarci, l'indirizzo email è l'altraeuropa@radio24.it oppure Twitter e Facebook. Ancora buon sabato, ancora buon anno da Federico Taddia. Ciao. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.